Passiamo adesso al tema di questa nuova puntata di Spazio Giovane, dove dovremmo, se Dio vuole, chiudere il discorso sull'ottavo comandamento. Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo fatto riferimento ad alcune brutte, diciamo, fenomenologie di maldicenza? E adesso dovremo chiudere l'argomento con ulteriori considerazioni. Anche qui faremo riferimento allo scritto di qualche santo e vedremo possibilmente forse oggi di concludere. Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo chiuso facendo riferimento al giudizio temerario, scusate, identificando con questo il giudicare in malo modo l'intenzione del prossimo o attribuirgli colpe morali quando non abbiamo la certezza assoluta che la sua azione sia stata dettata da malizia morale. Vorrei, come dire, prima di chiudere questo argomento sulla maldicenza, anche sulla mormorazione che abbiamo visto nelle volte scorse, riprendere qualche passaggio del santo curato d'Ars, citando una serie molto comune di giudizi temerari, un po' particolari, ecco, di cui il santo fa riferimento nella già citata omelia sulla maldicenza. Allora, lui dice così: dice, questa gente vi attribuirà delle intenzioni che voi non avete mai avuto, avveleneranno ogni vostra azione e ogni vostro movimento. Se sentite bene, se siete persone pie che vogliono adempiere fedelmente i doveri della vostra religione, per loro siete solo degli ipocriti, che vi comportate come un dio quando state in chiesa e come diavoli quando siete in casa vostra. Avete visto, no? Appena una persona si avvicina un po', subito cominciamo con le ironie o con le piccole persecuzioni, dice, ah, adesso tu fai l'angioletto quando stai in chiesa, poi però quando vieni a casa, ecco, giusto? Sei un diavolo, no? Oppure sei un bigotto, oppure sei un ipocrita. Ecco. Ancora, se poi non possono proprio dire che siete ipocriti, perché magari fate delle opere buone, che succede? Essi penseranno che lo fate per orgoglio, si vuole mettere in mostra, lo fate per farvi vedere. Così come quando uno sta in chiesa, no? Che magari viva Dio e anche questo cerchiamo di farlo, eh? Oggi ho postato un articolo su Facebook scritto da Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro che ironicamente dice dobbiamo istituire un telefono azzurro per la liturgia, dove lì praticamente fa una carrellata sferzante e ironica, ma ahimè molto rasente il vero, su alcune pessime consuetudini che si possono vedere in giro per le parrocchie di tutta Italia, con un oltraggio gravissimo fatto al nostro Signore. Quindi quando oggi si vede una persona pia, non so, che tranne in chiesa si ricorda che non sta entrando allo stadio, e allora fa la genuflessione, il segno della croce quando entra, come tutti dovrebbero fare, ah guarda quello, guarda, guarda, adesso quello fa il santarello, deve attirare su di sé l'attenzione, devono tutti pensare che è santo solo lui. Non parliamo se una donna si azzarda in chiesa a mettersi il velo. Quella qualcuno gli ha lavato il cervello, gli è stata plagiata. Voi pensate, questo ve lo racconto tanto per raccontarlo, così dovesse sentire questa catechesi anche qualcuno che ce l'ha con me, c'ho la possibilità di difendermi. Voi pensate che l'anno scorso mi arriva questa bella maldicenza sparsa in giro sul mio conto e dice, non andare nella parrocchia di quel parroco brutto e cattivo, perché quello, se non c'hai la gonna lunga fino ai piedi e non c'hai il velo in testa, non ti fa entrare in chiesa. Dico, ai ai ai, quanto è cattivo questo parroco, pensavo tra me e me. Peccato però che la mia parrocchia chiaramente è pubblica, chiunque è il benvenuto. E stare tranquilli che si entra in chiesa anche senza gonna lunga, che tra l'altro a me non piace la gonna lunga fino ai piedi è un po' troppo, mi piace sulle suore, non mi piace molto, anche se mi piace di più la gonna, però tra le persone che vivono nel mondo, perché, come ho detto altre volte, secondo me una donna che vive nel mondo è lodevole se dia un esempio di femminilità, ma da laica, non da suora. C'è un profilo Facebook, di cui tra l'altro io sono tra gli amministratori, che viene dal Brasile, si chiama Femminina Modesta Elegante. Ecco, dove, se un po' di signorine vogliono uscire dalle mode orride e ridicole che sono oggi in giro e vogliono vestirsi bene, da donne, anche in maniera attraente e santamente piacevole, come è giusto che sia, lo vadano a visitare. Allora, se voi venite a parlare con le donne che stanno qui, d'accordo, tranquillamente, chiedete, a parte il fatto che potete tranquillamente venire senza velo, signorine, e vedere se questo mostro di parroco non vi fa entrare, ma poi chiedete alle persone, perché sì, molte persone qui vestono in un certo modo e portano il velo, ma io posso dire in coscienza che non ho detto mai a nessuno riguardo questo, a nessuno. Sono tutte decisioni liberamente prese per conto proprio. Basta. Perché il sottoscritto, vado a parlare con i miei ragazzi del post-cresimo, eccetera, eccetera, quando non si tratta dei 10 comandamenti, che comunque propone e non impone a nessuno, però ricorda, state attenti, che non commettere atti impuri, come stiamo vedendo in queste puntate, non è un optional. Certo, se non lo vuoi fare, Dio non ti sta davanti col fucile puntato. Avrai delle conseguenze, però, perché questa è una cosa che è peccato, è male, oggettivo. Sulle cose che non si tratta o non si tratta di peccato, la libertà è assoluta, nel senso che se le fai è meglio per te, cioè avrai dei beni in più e delle grazie in più da parte del Signore, se non le fai, tanto peggio per te. Ma non è, può darsi anche che il Signore non te le chieda a te personalmente, e quindi si tratta di cose di per sé stesse non indispensabili alla salvezza, sulle quali c'è la libertà assoluta. E io ben mi sogno dall'ederla. Andate a parlare con i miei collaboratori, se io ho mai chiesto a un mio collaboratore, mai? C'è un'iniziativa da programmare, c'è la festa, c'è il Grest per i ragazzi, l'estate ragazzi, eccetera, eccetera. Ci sono delle persone che liberamente e volontariamente si mettono a disposizione per questo? Sì, si fa. Non ci sono? Non si fa. Chiuso. D'accordo? Finito. E non parliamo poi dei soldi, che io non chiedo mai e a nessuno. E ne arrivano sempre tanti e più di quanti ne servono, nonostante che io stia in una parrocchia povera. Chiudo tutte queste parentesi, quindi non scandalizziamoci, d'accordo, se arrivano le chiacchiere. Quindi una persona devota entra in chiesa subito, questa si deve far vedere, è santa solo lei. No, non è vero affatto per questo qui. E non Capitano? bisogna. Sì, Ave Maria. Sì. Maria, Donato, c'è qualcuno che vuole intervenire? Sì. Ascolto. Non sento nulla, madre. Sì, ora potete parlare? Sì. Ave Maria, non sento nulla, madre. Madre, io non sto sentendo quello che dicono, eh? Quindi c'è silenzio assoluto. Pronto? Scusi, Don Leonardo, può continuare che gli vorrei chiamare di nuovo Nicola. Sì, va bene, continuo, non sentivo nulla. Allora, quindi non ci stupiamo e non ci scandalizziamo se le nostre intenzioni vengono fraintese, specialmente su questo motivo. Ecco. Adesso vige la follia allo stato puro, cioè che la Chiesa sia diventata il luogo dove tutto è possibile, una sorta di foro, d'accordo? O di stadio, ma questo è assolutamente impensabile e assurdo. Quindi non soltanto che non dobbiamo avere paura se fraintendono le nostre intenzioni, ma dobbiamo farlo proprio perché fraintendono le nostre intenzioni. L'importante è che ci sia nell'attitudine del cuore nostro. Ricordiamo il Vangelo domenica scorsa, la coscienza che noi siamo dei grandi miserabili e dei grandissimi peccatori, e dobbiamo sempre sentirci nel cuore i più grandi peccatori di tutti, però questo non ci proibisce né ci impedisce di cercare per quanto possibile di rendere a Gesù l'amore, il culto e l'onore che gli sono dovuti. Se qualcuno vuole chiacchierare, chiacchieri pure, che non fa altro che aumentare il merito delle nostre azioni. Ave Maria. Pronto, mi sentite? C'è Don Leonardo e... Sono in ascolto. Chi è al telefono? Pronto? Sì. Don Leonardo, buonasera. Sì. Sono Nicola da Napoli. Don Allora. Leonardo, lei ha detto poco fa, ci ha citato per quanto riguarda il fatto del cielo da accendere la sera del 31, questa festa insomma pagana, diciamo in effetti. Sì. Mi segue? Seguo, seguo. Niente, io suggerirei anche di recitare anche un Santo Rosario e tirare fuori l'arma della coroncina, della corona del Santo Rosario, che San Pio diceva proprio che l'arma contro il maligno e Ma contro le... insomma, forse non l'ha sentito bene, io ho detto che noi facciamo una veglia di preghiera che comincia alle 11 e finisce alle 4, quindi di rosario ne faremo 4, ne faremo non uno durante la veglia, più l'adorazione, più la Via Crucis, più tante altre cose, certamente. Pronto? Sì, ha sentito quello che Questa è la mia testimonianza, questo volevo dire. ho detto? Ok, ha sentito quello che le ho detto? Lei? Quando è in buona voce, forse ce l'avete spenta. Allora, ha sentito quello che le ho risposto? Io ho capito, ho capito, ho capito. Ecco, quindi senz'altro una corona va bene, quattro per quella notte andrebbe meglio per chi ha un pochino di coraggio, quindi senz'altro. Va bene, Ave Maria. Procedo, madre? Continuare. Siamo arrivati quasi alle 17, quindi prima di continuare invito tutti gli ascoltatori a raccogliersi un attimo e recitiamo insieme una Ave Maria in onore della Madonna. Ricordo sempre che questa pia tradizione deriva dal fatto che le 17 è una delle ore importanti per quanto riguarda Maria Santissima, perché è l'ora in cui apparve a Rüdebach sotto, diciamo, l'aspetto della Madonna della Medaglia Miracolosa. Quindi, insieme, unendoci spiritualmente con tutti gli ascoltatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, altro esempio citato dal santo curato d'Ars: se fuggite le abitudini del mondo, per esse siete persone strane, malati di testa. Attenzione qui, le abitudini del mondo, a prescindere da quello che intendesse al suo tempo il santo curato d'Ars, non vuol dire, ragazzi e ragazze carissimi e anche meno giovani che sono in ascolto, fare vite strane, d'accordo? Ecco, perché noi che viviamo nel mondo e non in monastero o in convento, non possiamo estraniarci dal mondo. Gesù ha detto: io vi ho scelti dal mondo e vi ho inviati nel mondo, perché andiate e portate frutto. Quando parla di abitudini del mondo, parla di abitudini negative, cioè ci sono delle cose che noi non le facciamo perché sono opere di morte. Faccio un esempio per i giovani, d'accordo? I giovani è bene che in discoteca non ci vadano, l'ho detto già altre volte, ma non perché ballare in se stesso, se è un ballo, come dire, tranquillo o fatto a scopo solo di divertimento, sia una cosa negativa, ma perché per ciò che l'ambiente della discoteca rappresenta. Il demonio durante un esorcismo ha detto che le discoteche sono le sue chiese e che l'eroina è la sua comunione. Quindi, di fatto, io ho sconosciuto, ultimamente è venuto Paolo Brosio qui. Paolo Brosio aveva il Twiga a Forte dei Marmi insieme a Briatore e Marcello Lippi, insomma, qualche anno fa, ma ha detto quello che succedeva al Twiga e perché era un locale così famoso. Quindi noi non andiamo lì non perché vogliamo che c'è il muso lungo, d'accordo? Perché in altri posti, mo faccio un esempio, in un pub con una buona compagnia si può andare, Basta che uno non si ubriaca, chiaramente, basta che uno esagera in tante cose, si può andare. Mo' non vorrei adesso che suscitare un inferno. C'è della gente che si straccia la veste quando sente parlare del McDonald's. Io dico, se dei ragazzi vanno tranquillamente al McDonald's, basta che non si abbottano di cose, insomma, che li fanno poi diventare obesi come gli americani, ma il luogo in se stesso, non credo che se uno vada al McDonald's si contamina col demonio. Anche perché io quando porto i ragazzi del post-cresima fuori e loro vogliono andare al McDonald's, ci vado con tutta la tonaca e non mi sembra di fare nessun tipo di delitto, insomma. Io mi confesso tutte le settimane, ma ancora non ho mai detto in confessione che sono stato al McDonald's. Se poi dovessi capire che è una cosa così grave, lo dirò. Quindi non si tratta, ok, oppure gli stili del mondo, di ammazzarsi di canne quando uno è giovane, non è indispensabile, d'accordo? Ci si può divertire e io sinceramente con i miei carissimi ragazzi ci anche divertiamo, sinceramente mi diverto pure io con loro, lo dico tranquillo, da sacerdote sempre e non poco. Uno degli scopi del gruppo dei ragazzi che ci sta è di far capire a questi ragazzi che per divertirsi non è necessario sballarsi o fare cose strane, che tra l'altro ti fanno divertire per niente, per qualche volta quando ero giovane ho raccontato in altre circostanze la mia esperienza, le ho fatte anch'io alcune cose, e tutto questo gran divertimento non è che ci sta, perché se tu bevi come una scimmia e alla fine ti ritrovi con una testa come un pallone, col male di stomaco, e passi la notte a vomitare, il giorno dopo stai tutto il giorno storto, ma mi spieghi che divertimento è questo qua, volendo anche parlare in termini puramente umani. Quindi noi fuggiamo le abitudini del mondo, noi siamo persone strane, perché siamo persone intelligenti, perché sono persone strane quelle che le fanno queste cose, non quelli che non le fanno. E quelli che pur non rinunciando, come dire, anzi, ad una vita serena e felice, ricordiamo sempre che San Giovanni Bosco diceva, guardate che la santità si riconosce da una cosa, dallo stare sempre allegri. Non per niente ha fatto l'oratorio, cioè tutto che cosa ha fatto San Giovanni Bosco, il grande San Giovanni Bosco? Ha preso i giovani, tirandoli fuori dalla strada, ridandogli una dignità, gli ha ridato la fede anzitutto, gli ha insegnato a lavorare, seconda cosa, gli ha dato un mestiere e gli ha dato la compagnia e la letizia dello stare insieme. L'oratorio c'è una funzione importantissima. Proprio per far capire ai ragazzini che giocare, divertirsi in maniera sana, fare sport, eccetera, eccetera, non solo che non c'è niente di male, ma sono cose positive che sono cose da promuovere. Per questo che l'oratorio si fa in parrocchia, l'oratorio è l'oratorio parrocchiale. E non è che l'oratorio parrocchiale, come dire, è una perdita di tempo perché la parrocchia serve soltanto per dire la messa. Non vi stupite che parli io così. La messa ovviamente sta su un altro pianeta, perché la messa è tutto, è lui. Però intorno alla messa ruotano anche tante altre cose buone che il Signore le benedice in quanto buone. Ecco, quindi malati di testa non siamo noi se schiviamo alcune malsane abitudini del mondo. Queste sono le abitudini del mondo. Vuol dire che ci rinchiudiamo in una sorta di inesistente monastero invisibile, oppure che stiamo sempre da soli o sempre col muso lungo. Non è questo qui essere cristiani, Nessuno mi mette in testa una cosa del genere. Questa è la parodia dell'essere cristiani, questa è la caricatura dell'essere cristiani. Ecco, ancora, continua il Santo Coro, se avete cura dei vostri beni, per essi siete soltanto avari. Questa è un'altra cosa che oggi va di moda e che a me mi fa venire un tale nervoso, ne abbiamo parlato a proposito del settimo comandamento. Sembra che se uno si preoccupa di ben amministrare i propri beni, cioè di avere uno stipendio decente, di avere una vita possibilmente dignitosa e agiata, ah, chi lo sa quale grande peccato, perché oggi devono essere tutti per forza poveri. Bisogna essere per forza poveri perché appena uno ha 500 euro in più, già comincia a essere a rischio di dannazione perché c'ha troppi soldi. Ma chi l'ha detto questo qui? Chi ha detto questo? Io vorrei tanto sapere chi ha detto questo. Quando nel corso della storia della Chiesa sono stati santi miliardari, ma mica uno solo. Tanti, a partire dall'amico migliore di Gesù, che era Lazzaro, e che era miliardario, perché chi non ci credesse andasse a studiare la storia, Lazzaro era figlio di Teofilo, governatore di Siria. Apro un libro e vado a vedere chi era Teofilo, governatore di Siria, e quanti erano i possedimenti terrieri che aveva Teofilo, governatore di Siria. Questo era il miglior amico di Gesù, d'accordo? Altro che Berlusconi. Il miglior amico di Gesù. Quindi se fosse stato tutto questo demonio incarnato, Non penso che sarebbe stato il mio miglior amico di Gesù, pure c'era un sacco di soldi. Ecco. Il problema è che, come abbiamo detto a suo tempo, è l'uso che noi facciamo dei nostri soldi, che deve essere un uso retto, come dice anche il Vangelo, non soltanto egoisticamente per noi, per darci la bella vita o per riempirci di inutili beni di lusso, ma condividendo anche con chi è privo del necessario quel più che abbiamo, aiutando le opere della Chiesa, aiutando le opere apostoliche, facendo del bene come Dio ci ispira, punto e basta. E provvedendo anche alle esigenze di una vita dignitosa e decorosa che dove, non, che dove possiamo anche essere messi in condizioni di fare bene il nostro lavoro, no? Un avvocato non può mica andare in tribunale non va, non sta bene con i jeans e con la camicia, non ci può andare. Può non comprarsi il vestito da Armani, d'accordo, perché non è indispensabile comprarsi il vestito da Armani, si può comprare un bel vestito, una bella giacca, una bella cravatta senza spendere 2000 euro, d'accordo? E questo è secondo me opportuno, insomma, no? Che lo stile di vita di un cristiano sia non tendente a sfarzo e a inutile lusso, questo siamo tutti quanti d'accordo, ma non in misura estrema, no? Quindi quando qualcuno è così, specialmente oggi, ha questo sicuro dei soldi perché è attaccato ai soldi, è avaro, non dà niente a nessuno, è idolatra, gli piacciono i soldi e magari disprezza pure i poveri, andrà subito all'inferno. Ecco. Sono tutti quanti forme di giudizi temerari, oggi diffusissimi. Allora, poi c'è una cosa che fa un po' ridere, e il Santo Curato d'Ars spiega come si parla male senza parlare. I santi sono troppo forti. Perché adesso mi vorrebbe per certe cose che ci sarà poi il video di questa catechesi, però sarebbe bello poterlo mandare in diretta radio, perché la mimica è molto più eloquente che non la parola. Comunque cercherò di farmi spiegare anche attraverso la parola, anche perché il Santo Curato d'Ars le scrive alcune cose e le fa capire molto bene, quindi le cito. Dice: "Affermo ancora che si parla male perfino senza dire nulla, ed ora vi spiego come. Potrà accadere che alla vostra presenza si lodi una persona che si sa che conoscete e voi non dite nulla, oppure la lodate con una certa freddezza. Allora il vostro silenzio o la vostra simulazione, quindi dici: "Ma quello è tanto bravo", dici: "Ma sì, abbastanza". Ecco, basta rispondere così che chi ti ascolta dice: "Ah, ma forse non è così tanto bravo come penso io". E questo è già sufficiente per aver fatto una maldicenza, no? Scrive il curato. Il vostro silenzio e la vostra simulazione porteranno a pensare che voi conoscete sul suo conto qualcosa di brutto e che questo vi porta a non dire nulla. Oppure, peggio, altri poi parlano male sotto un'apparenza di compassione. Sentite, eh? Non sai niente, essi dicono. Non hai sentito ciò che è successo a quella tale che conosci bene. Peccato che si è lasciata ingannare. Tu che sei come me, non avresti mai creduto? Ecco, quindi è quando come dire, non si dice, però si dice. Capite? Poi San Francesco, se sentite, ci dice che una simile maldicenza è simile a una freccia avvelenata che si immerge nell'olio perché penetri più in profondità. Cioè, quindi tu dici: ha combinato un peccato che poverino si è lasciato ingannare, però ha combinato un guaio. E l'altra persona non lo sa. Allora, sembra che tu stai commiserando l'ingenuità di quella persona che si è lasciata abbindolare per combinare un guaio. Ecco, ma in realtà tu la stai frecciando, la stai colpendo, e in maniera più raffinata. Se poi conclude con un gesto, un sorriso, un ma, un dondolio della testa, una sottile aria di disprezzo, tutto ciò contribuisce a far pensare un gran male della persona di cui ci parlano. Pensate agli sguardi che noi facciamo, no? O ai gesti. Io ogni tanto scherzando dico: beh, sai che l'ho fatto anche in radio, non vorrei dire sempre le stesse cose, no? Quando parlo della violazione del sigillo sacramentale da parte di un prete. Se un prete esce dal confessionale, ha sentito una grande confessione e non lo so, fa una smorfia come per dire: ma quante me ne ha dette questo? Capite? Anche se non ha detto nessun peccato e non ha rivelato il nome del penitente a parole, ha infranto e è infrazione diretta del sigillo sacramentale, perché ha lasciato intendere quel penitente, quel preciso penitente che è uscito di lì, gliene ha dette quante carni in Francia. Capite? Eppure se qualcuno dovesse andare a dire: ma tu hai fatto il nome e il cognome e hai detto i peccati che ti ha detto? No. Però con un gesto hai fatto forse peggio di quanto avresti potuto fare, no? Ecco, si tratta della maldicenza operata con eloquenti gesti di mimica, oppure con studiati e mirati silenzi, che talora può essere più tagliente della mormorazione formulata a parole. Infine ne cito ancora un altro, che è il bruttissimo e grave peccato della delazione. Cos'è la delazione? Riferire a qualcuno ciò che un altro ha detto di lui o ha fatto contro di lui. Qui il Santo Curato la chiama la delazione, l'abbiamo già visto la volta scorsa, altri autori di ascetica e di morale la chiamano mormorazione. Si tratta di quello che comunemente si dice fare la spia. Ecco. Quindi io vengo a dirti male di Tizio e tu vai da Tizio e gli dici: guarda che Don Leonardo ha detto male di te. Questa è la... è terribile. Per mostrarvi quanto questa specie di persona sia colpevole, ascoltate quello che ci dice lo Spirito Santo, e qui cita il libro dei Proverbi, chiaramente nella versione della Vulgata, che era quella in auge ai tempi del Santo Curato. Ci sono sei cose che Dio odia, ma la settima egli la detesta. E questa settima è la delazione. Pensate che San Francesco, se sapeva che un suo frate si era reso colpevole di questo peccato, la delazione, oppure della detrazione. La detrazione è l'altro nome della maldicenza, cioè parlare male di altri frati. Quindi anche non a scopo delatorio, quindi non per mettere seminare zizzania tra i frati, ma semplicemente per biasimare, magari rivelando delle colpe occulte, il comportamento degli altri frati. Lui cacciava le persone dall'ordine per questo motivo. Per peccati più gravi, dopo aver ricevuto il pentimento del frate, magari sotto grande penitenza, dava una seconda possibilità, ma per questo peccato ti buttava fuori e non voleva sentire storie. Perché diceva che una cosa del genere è gravissimamente lesiva della carità. State attenti che per questi comportamenti, per questi peccati, si sfasciano le famiglie, si sfasciano le parrocchie, si sfasciano le amicizie, si sfasciano gli ambienti di lavoro, si sfasciano i rapporti tra colleghi, si sfasciano i rapporti nella scuola, si sfascia tutto. E sono cose commesse con estrema leggerezza. Sono cose che possono diventare improvvisamente gravi e gravi o gravissime senza che noi ce ne accorgiamo. Perché un conto è il piccolo pettegolezzo, un conto è la piccola maldicenza, un conto sono cose che veramente vanno a seminare odio, rancori, divisioni, eccetera. Dio ce ne scampi e liberi. Allora, scandagliate il vostro cuore e vedete se non siete anche voi in qualche modo colpevoli in questa materia. Chiusa la citazione. La delazione dunque consiste nell'andare a riferire al diretto interessato le maldicenze fatte da altri sul suo conto. I litigi, gli odi e le contese che si provano con questo comportamento sono gravi e incalcolabili. Allora, quindi, se proprio uno non riesce ad astenersi dal peccato di ascoltare maldicenze e mormorazioni, cosa che è già peccato, come abbiamo visto la volta scorsa, almeno poi si tappi la bocca, nel senso che eviti di aggravare ulteriormente questo già grave peccato che ha fatto con l'odioso crimine della delazione o mormorazione, come preferite, seminando zizzania e divenendo stretti, degni e fedeli collaboratori di Satana, che Satana, diabolos in greco, vuol dire colui che divide, che è il divisore, il seminatore di zizzania per antonomasia, e come dire, gongola, si ingrassa con queste nostre miserie. Allora, come già accennato, io vorrei adesso fare una citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, perché quando queste varie forme di maldicenza vengono perpetrate attraverso i mezzi di comunicazione, c'è un aggravamento pauroso, ecco, della già compromessa e seria rilevanza morale di questi comportamenti. Allora, qui cito i numeri 2494 e 2497 del Catechismo della Chiesa Cattolica. L'informazione attraverso i mass media è al servizio del bene comune, si legge nel 2494. Il retto esercizio di questo diritto richiede che la comunicazione nel suo contenuto sia sempre vera e, salve la giustizia e la carità, integra. Salve la giustizia e la carità, però. Noi non possiamo ricorrere al diritto di cronaca per andare a distruggere una persona. Inoltre, nel modo sia onesto e conveniente, cioè rispetti scrupolosamente le leggi morali, i diritti e la dignità dell'uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella loro divulgazione. Proprio per i doveri relativi alla loro professione, i responsabili della stampa hanno l'obbligo, nella diffusione dell'informazione, di servire la verità e di non offendere la carità. Si sforzeranno di rispettare con pari cura la natura dei fatti e i limiti del giudizio critico sulle persone. Devono evitare di cadere nella diffamazione. Questo è quello che scrive la Chiesa. Quindi, la veracità di delle informazioni e la loro integrità, piccolo commento, devono essere sempre esercitate salvaguardando la giustizia e la carità. Quindi, la giustizia, ma anche la carità. Non si può mettere una persona al pubblico bando o al pubblico ludibrio. Non solo, ma le modalità di divulgazione delle notizie devono essere rispettose della dignità della persona. Anche il modo con cui tu presenti una notizia, no? Quindi il servizio della verità, che è doveroso, non deve in nessun caso offendere la carità, altrimenti, dato che tutti danno addosso alla Chiesa, tanto per fare uno sport nuovo. Tra le cose di cui, a mio avviso, e non vorrei scandalizzare nessuno, perché dopo dice anche Don Leonardo pensa queste cose, cioè, Don Leonardo pensa queste cose, perché quando le cose sono vere bisogna pensarle. Voi sapete che quando Giovanni Paolo II nel 2000 scelse di, a mio avviso coraggiosamente, con un atto e con tutti quanti gli atti, i santi si presta a fraintendimenti. Però mentre su altri atti che ha compiuto, io personalmente ho qualche riserva, nel senso che il tasso di fraintendimento era alto e il bene realizzato con certi altri atti non era così importante. Quando il Papa fece la scelta di chiedere perdono, attenzione, non a nome della Chiesa, perché la Chiesa non chiede perdono a nessuno, perché la Chiesa, in quanto Chiesa, non ha nulla di cui farsi perdonare. Io quest'anno sto facendo gli incontri di catechismo per adulti sulla Chiesa. Non è escluso che quando finisco queste trasmissioni sui 10 comandamenti, chieda alla redazione di poter parlare anche con voi, giovanotti, del tema Chiesa, di cui tra l'altro che rappresenta la mia competenza specifica e personale, perché io ho preso il dottorato in teologia dogmatica con specializzazione in ecclesiologia. Quindi la Chiesa non chiede perdono a nessuno e non è un gesto di superbia, perché la Chiesa, se uno capisce bene cosa si intende con questa parola, non si identifica né con gli uomini di Chiesa, né con i papi, né con i vescovi, né con i preti, né con i frati, né con nessuno dei battezzati. La Chiesa è una realtà teologica che è fatta da queste persone, ma non si identifica con nessuna di esse, salvo alcune circostanze molto concrete e particolari. D'accordo? Quindi, se uno va a leggere bene, Giovanni Paolo II non ha chiesto perdono a nome della Chiesa. Lui ha chiesto perdono, e sto parlando di verità e carità, per questo che cito questo episodio, dicendo che anche i giornalisti non possono in nome della verità mancare alla carità, perché altrimenti fanno la stessa cosa di cui tutti i libri di storia sono pieni come capo di imputazione, non contro gli uomini di chiesa ma contro la chiesa, scrivendo una cosa falsa, perché la chiesa non fa queste cose. Alcuni uomini di chiesa hanno fatto queste cose. Allora Giovanni Paolo II ha chiesto perdono se in qualche circostanza, da parte di qualche uomo di chiesa, quindi leggete sempre bene le parole, perché quando viene fatto un documento ufficiale, una dichiarazione ufficiale, specialmente da un papa, le parole sono ponderate, sono sono ponderate. Io ho sentito, per esempio, l'ho già detto, lo posso, insomma, bisogna essere molto prudenti quando un personaggio pubblico, e tanto più è in alto e quanto più deve essere consapevole di questo, fa delle affermazioni frettolose, oppure a mo' di slogan, a mo' di spot pubblicitario, prestandosi a 100.000 fraintendimenti. Se voi leggete i documenti della Chiesa, io li conosco bene. Cioè, quando tu te li studi con attenzione, capisci che ogni virgola è ponderata, ogni parola è ponderata. Cioè, ci si pensa, ci si ripensa, ci si ripensa, perché già è facilissimo capire fischio per fiasco. E a mio avviso la vicenda del post-concilio Vaticano II, lo sto già dicendo nelle catechesi, lo dimostra. Il concilio Vaticano II va benissimo, va, in quanto tale. Bisogna vedere quello che gli hanno fatto dire dopo. E io sono su questo perfettamente d'accordo con la linea interpretativa portata avanti da Benedetto XVI e spero ripresa ed approfondirsi da parte dell'attuale successore, lo spero vivamente, perché secondo me è l'unica, è il retto cammino. Quindi le affermazioni, ma anche il Concilio Vaticano II, io l'ho studiate, devi fare una violenza ai testi per fargli dire fischio per fiasco, perché nei passaggi più delicati le affermazioni si cerca di farle in un certo modo. Certo che se tu fai una forzatura potresti fraintendere, ma dire che questa era l'intenzione di chi li ha scritti è un po' troppo. Andiamo a fare poi il peccato di giudizio temerario, perché noi dobbiamo concedere la buona fede ai padri conciliari, cioè di essere in linea con ciò che la Chiesa ha detto per 2000 anni, d'accordo? E non di essere fuori di questa linea, fino a prova palesemente contraria. Allora, il Papa ha chiesto perdono se nel rendere il doveroso servizio alla verità, attenzione, si è qualche volta mancato alla carità, che è una cosa che non si può fare, però il servizio alla verità bisogna renderlo. Quindi la soluzione di questo non è il buonismo, quindi non è la carità senza la verità, no. Ci vogliamo tutti bene, Dio manda tutti in paradiso. E le religioni sono tutte uguali, non si deve convertire nessuno, basta che siamo fratelli, eccetera, eccetera. No, no, no. Ma nel portare la verità devo sempre agire con la massima carità possibile. Se è vero quello che scrivo nei libri di storia, voglio sperare che lo sia, anche se sono spesso tendenziosi, che è successo in alcune circostanze limitate, non sempre e dovunque. Che durante la conquista dell'America, questo è quello che ricordo dai libri di testo, per far battezzare gli indios si mettevano da una parte il prete con l'acqua santa e dall'altra il boia. Se dovesse essere successa una cosa di questo genere, io non voglio fare l'antistorico, però con tutto quello che dicono, voglio sperare che si siano sbagliati e che sia una cosa assolutamente eccezionale, isolata, però certamente un comportamento di questo genere non è sottoscrivibile, ma è un comportamento limitato e circostanziato. La Chiesa non ha mai voluto fare o ordinato di fare una cosa di questo genere. Allora, oggi sono i giornalisti che devono stare attenti a questo qui, perché abbiamo recentissimi fatti di cronaca, recentissimi, dove disgraziatissimamente, in nome di un non si sa quale servizio alla verità, sono state messe in mezzo alla strada le persone. Quando io ero giovane, che ci fu un'inchiesta uragano condotta da un pool che è diventato poi famoso in tutto il mondo dei magistrati di Milano, la Mani Pulite, quella che rese tra l'altro famoso Paolo Brosio, tra le altre cose. Guardate che qualcuno si è andato a impiccare. Non erano santi quelli che si sono andati a impiccare, a quanto pare, a quanto ricordo. Adesso non vorrei, però io dico: ho capito, ha sbagliato, ha rubato, ha preso le tangenti, va bene, però, dico, però a proprio fargli il linciaggio mediatico assoluto, non sto dicendo che era nelle intenzioni, perché dopo nessuna. Cioè, è un concorso di fattori, perché il magistrato fa il suo lavoro, però poi la notizia esce, poi la batte la testata X, la batte la testata Y, va nel telegiornale Z, nel telegiornale Gamma, boom, boom, boom, per settimane, per giorni, criminale, criminale, criminale, boom, e una persona non regge emotivamente e si spara. Allora, non è che è colpa di nessuno, non è che uno vuole mettere alla gogna nessuno, però tutti devono fare attenzione, no? Perché ciascuno ci ha messo il suo, d'accordo? E questo non bisogna farlo, questo qui, perché il linciaggio mediatico è una cosa allucinante, perché oggi è il rimbalzo, ma poi oggi la situazione rispetto a Mani Pulite c'era soltanto la televisione, e oggi c'è la rete, ragazzi. Ti rimbalza una notizia su Twitter o su Facebook, nel giro di 5 minuti lo sanno milioni di persone. Io so che c'è qualcuno che sta un pochino in ritardo, però io dentro la rete ci sto abbastanza attivo e la rete è una bomba a orologeria, perché ti dà dei rimbalzi spaventosi. Quindi la dignità, la privacy e il dolore delle persone non possono essere sacrificate allo scoop, quindi all'ultima notizia, al servizio ad effetto. I giornalisti devono stare attenti anche ad alcune immagini che trasmettono troppo truculente o alle violazioni quando muore qualcuno, a fargli un'intervista, a mettergli il microfono sotto la bocca, ma non è il caso, no? Ci vuole anche un po' di rispetto per quel dolore, no? Io non sto adesso dando la colpa a nessun giornalista, eh? Cerchiamo sempre di capire bene, che l'altro giorno mi è arrivato anche un commento, chiudo riprendendo un aspetto, di gente che non ha capito niente, per esempio di alcune mie catechesi passate. Cioè, quando io faccio una cosa di questo genere, non sto mettendo alla gogna nessuno, sto segnalando un problema. Un problema, come fa del resto la Chiesa, che è segnalato, d'accordo? Quindi che non vuol dire mettere in croce nessuno. Come quando parlai degli avvocati non voleva dire mettere in croce agli avvocati, come quando dissi che un sistema fiscale eccessivamente pesante e oneroso è moralmente illecito, ne non ho assolutamente detto che bisogna evadere le tasse, bisogna evadere il fisco. Oh. Sto parlando da un punto di vista morale, quindi vuol dire che bisogna operare anche a livello politico perché questa cosa sia alleggerita. E bisogna creare opinione pubblica nel senso di dire: ragazzi, andiamoci piano perché una pressione fiscale eccessiva io la subisco, ma è iniqua. E questo penso che se può di più manco questo, cioè, non possiamo parlare più, ma noi dobbiamo parlare. Ecco, i modi cristiani sono sempre leciti. Il cristianesimo non propugna, che ne dica qualcuno, la rivoluzione, la lotta armata oppure lo scontro diretto. È sempre l'arma della parola e l'arma della verità detta nella carità, ma detta anche con sincerità quando bisogna dirla, no? E quando uno fa un caso limite, è un caso limite, d'accordo? I casi limiti sono sempre casi limiti e vanno trattati come casi limiti. Quindi attenzione a questo argomento, così come attenzione all'estrema facinoneria nella critica, nel giudizio, nelle maldicenze anche di queste forme un po' particolari che abbiamo visto oggi, che sono tanto pietosi quanto più, come non di rado accade, ahimè, appaiono faziosi se non addirittura gratuiti. E chi ne fa le spese è sempre, ahimè, la buona fama altrui, che tra i beni è senz'altro annoverabile tra quelli più preziosi. Vi do a tutti la benedizione e appuntamento, se volete, alla prossima settimana. Mi raccomando, viva i nostri santi, alla larga da Satanasso e dalle sue feste come Halloween. Santa festa dei santi a tutti, Ave Maria.